Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Si chiama GIPSTEC e ci sono buone probabilità che si avvii a diventare lo standard di riferimento per la geolocalizzazione negli ambienti chiusi. Insomma, l'equivalente del GPS quando però avete un tetto sopra la testa e il segnale satellitare è assente. GIPSTEC infatti è basato sulle anomalie del campo magnetico. Ne parliamo con Gaetano D'Aquila, che è l'amministratore delegato di GIPSTEC, che è al momento una startup innovativa, di belle speranze direi, con sede presso l'incubatore di imprese dell'Università della Calabria, di cui è uno spin-off, e anche con vari riconoscimenti alle spalle, tra cui la vittoria della seconda edizione di TechCrunch Italy. Buonasera D'Aquila. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, senti, intanto che cosa sono queste anomalie del campo magnetico? Ci dobbiamo preoccupare? No, assolutamente. Le anomalie del campo magnetico, diciamo, per far funzionare le bussole è meglio che non ci siano. Infatti, se all'esterno, se noi utilizziamo una bussola correttamente, riusciamo a identificare il nord. Tuttavia, se con la stessa bussola ci mettiamo all'interno di un edificio dove sono presenti varie tipologie di oggetti artificiali, metallici, la bussola noteremo che non punterà più esattamente la stessa direzione nord, ma punterà una direzione leggermente sfalsata. Questo è dovuto proprio alla presenza di alcune anomalie che sono introdotte da questi materiali artificiali che troviamo all'interno degli edifici. Cioè, per esempio, i tondini di ferro, no, del cemento armato ingabbiano, catturano le linee di forza del campo magnetico naturale, e voi riuscite, a identificando queste variazioni, appunto, a fare che cosa? Ecco, qui spieghiamo allora come funziona il vostro sistema. Funziona esattamente riconoscendo la posizione di dove la distorsione di campo si verifica. Quindi se noi, ad esempio, in corrispondenza dei quattro spigoli di una stanza di un edificio abbiamo materiale ferroso che mi distorcono in modo diverso il campo, dalla misura che l'utente fa, ad esempio attraverso il suo smartphone, facendo un confronto di similianza tra la misura e la mappa, riesco a capire. Certo. In prossimità di quale spigolo l'utente si trova. Quindi bisogna costruire una mappa magnetica di quella location, di quello spazio. A questo punto chi entra in questo spazio semplicemente confronterà l'anomalia che rileva col proprio smartphone con una mappa, e quindi in questo modo sarà in grado di stabilire esattamente dove si trova. Come vengono costruite queste mappe? Le mappe sostanzialmente servono a raccogliere la misura del campo magnetico all'interno dell'ambiente, quindi tipicamente possono essere costruite da una persona che cammina nell'edificio utilizzando il device che misura il campo magnetico, quale ad esempio un comune smartphone, oppure potrebbero essere costruite in maniera automatica da un robot che naviga l'edificio cercando di coprire tutta la sua superficie. Si riesce anche a tenere conto del piano a cui ci si trova? Perché questo è naturalmente molto interessante quando si tratta di navigazione indoor. Certamente riusciamo a tenere conto del piano, possiamo farlo sia basandoci sulle anomalie magnetiche o piuttosto più semplicemente utilizzando per esempio la quota barometrica che viene fuori dai barometri presenti sui più moderni smartphone. Sugli smartphone, ecco, perché da questo punto di vista il vostro sistema funziona già a bordo degli smartphone, ci sono tutti i sensori necessari. Sì, a bordo degli smartphone ci sono tutti i sensori necessari, diciamo che non sono i sensori migliori per fare quello che vogliamo fare noi, e infatti sugli smartphone otteniamo dei livelli di precisione che potrebbero essere molto maggiori se invece riproducessimo un piccolo hardware proprietario che fosse studiato appositamente per risolvere questo problema. Bisogna rendere in fin dei conti più sensibili, no? Più precisi i sensori che ci sono adesso, che non avevano bisogno di essere così precisi perché non esisteva un'applicazione di questo tipo. Esattamente. Non è che... Quali sono le possibili applicazioni? Una l'abbiamo, è ovvia appunto, ed è il posizionamento di una persona che, non so, in un ospedale cerca un parente, in un supermercato cerca un certo prodotto. Che altro? Sì, diciamo che ci sono due punti di vista fondamentali. Il primo è legato a quello dell'utente che vuole conoscere la sua posizione, quindi l'utente che si muove nell'ospedale vuole sapere dov'è, o all'interno del centro commerciale vuole sapere dov'è, oppure vuole raggiungere un determinato prodotto. L'altro punto di vista molto interessante, soprattutto lato business, è che chi gestisce il grande spazio chiuso può a sua volta fare delle analisi, ad esempio sui comportamenti degli utenti, delle analisi basate sulle traiettorie che l'utente compie all'interno del suo spazio, che potrebbe utilizzare magari per ottimizzare dei piani di sicurezza. Che può utilizzare, esatto, l'ufficio marketing come quello che si occupa dello sfollamento. Esatto. E la possibilità di trovare invece degli oggetti che magari si sono persi o non si sa esattamente in che posizione si trovino, è una possibilità di qualche interesse? certo, è molto interessante questa possibilità e tra l'altro c'è venuta fuori anche da richieste specifiche di alcuni early adopters che sarebbero interessati a testare la tecnologia. Si pensi ad esempio agli ospedali dove il medico ha necessità di trovare il defibrillatore o altra attrezzatura molto importante. Grazie Gaetano D'Aquila. Grazie. È tutto, a lunedì.